Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo delle bozze, anche se c'è stata una dura presa di posizione del ministro Amendola, se ho ben visto, che addirittura ha detto che verrà sporta denuncia per le indiscrezioni che sono circolate tra ieri e oggi sui progetti candidati a utilizzare i soldi del Recovery Fund, perché Amendola dice: attenzione, sono piani vecchi, serve maggiore serietà, c'è già un aggiornamento su questo, e ho chiesto alla Procura, ho chiesto al Presidente, d'accordo con il Presidente del Consiglio, di denunciare alla Procura della Repubblica l'ultima fuga di notizie. Anche perché i progetti non possono essere questi, se lo spiegheremo. Devo dire che quando ho visto alcune delle bozze che sono circolate, delle indiscrezioni, al netto di elementi già presenti, quindi le infrastrutture, la Torino-Lione, l'alta velocità Napoli-Bari, il piano per il 5G, ci sono anche, visto che sono arrivati dalle bozze circolate 577 progetti, è ovvio che, non, che sono irrealizzabili molti, anche perché la somma complessiva di queste richieste ammonterebbe a 677 miliardi. Faccio notare che l'Europa, la quota italiana del recovery sono 208 miliardi, ammesso e non concesso che vengano approvati tutti i progetti e ammesso e non concesso che si voglia utilizzare, oltre agli 82 miliardi di trasferimenti, quindi a fondo perduto, anche i 127 miliardi di prestiti agevolati, quindi non solo la parte dei trasferimenti ma anche i prestiti. È ovvio che così come sono uscite sono irrealistiche, ammontando complessivamente a 677 miliardi. Ve ne sono alcune corpose, dagli investimenti in sanità al piano per la transizione 4.0 delle nostre imprese, alle politiche sociali, con una riduzione temporanea del costo del lavoro, l'estensione del super eco bonus, del super sisma bonus anche fino al 2024, quelli sono quelli più corposi. Il piano Italia cashless, quindi portare, diciamo, la transizione verso la moneta elettronica. Poi ve ne sono alcuni oggettivamente incomprensibili, poi li ricorderò, ne cito un paio. Il Ministero della Difesa ha presentato un progetto che vale 450 milioni in 5 anni per realizzare una costellazione di piccoli satelliti impiegabili ai fini del monitoraggio dello spazio extra atmosferico. Non dubito che sia importante, ma non mi sembra prioritaria la creazione di una costellazione di piccoli satelliti impiegabili ai fini del monitoraggio dello spazio extra atmosferico. Preferirei concentrarmi sullo spazio atmosferico e soprattutto lo spazio, diciamo, a livello zero sul mare, cioè la realtà in cui viviamo tutti noi, che già mi sembra abbastanza complicata da qua all'autunno, così come io capisco l'importanza della produzione di olive in questo paese, ma l'ammodernamento degli impianti di molitura delle olive, 1 miliardo e 200 milioni in 3 anni e mezzo, non mi sembra anche questo così prioritario. Poi ce ne sono appunto 5 milioni per l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile. Per carità, insomma, cerchiamo di fare il punto, anche perché oggi il Presidente del Consiglio ha detto a Norcia, agli studenti, se falliamo sul recovery plan, quindi sul modo di utilizzare i soldi che arriveranno dall'Europa, fate bene a mandarci a casa. Se perdiamo la sfida del recovery, mandateci a casa. Sì, se perdiamo la sfida del recovery, aggiungo io, va a casa il paese, nel senso che non è solo un problema di chi starà al governo, è un problema che questo paese non si risolleva se non viene messa serietà, attenzione, competenza, attenzione ai dettagli e diciamo sguardo il più possibile anche verso il futuro, non solo a distribuzioni così per creare consenso. Io spero che questo non avvenga. Ci occuperemo di questo, ci occuperemo anche di Fiat Chrysler. Il titolo adesso guadagna l'8,90%, Exor più 6,30%. C'è stata una revisione dell'accordo con Peugeot Citroën e la borsa ne prende atto, adesso ne parleremo praticamente in apertura. Visto che parlavo della borsa, segnalo che Milano guadagna lo 0,90%, Parigi lo 0,50%, Francoforte più 0,30%, Londra più 1,40%, Dow Jones più 0,50%, oltre a Fiat e la controllante Exor. Bene oggi Moncler più 4,60%, Nexi più 3,40%, Inuit più 1,80% come Campari, Tenaris più 1,5% come Eni. Fronte opposto Unicredit meno 1,5%, continuano i problemi nella gestione online di Unicredit. Ci segnalano molti ascoltatori problemi nel quello che si chiama home banking. Atlantia meno 1,5%, B per meno 1,1%, CNH meno 1%, Banca Generali meno 0,90%, Poste meno 0,70%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E quindi Fiat, recovery plan, ma non solo, ci occuperemo anche della multa da 5 milioni di euro. La multa non è altissima, è il massimo però consentito alle Poste italiane accusate di condotte ingannevoli nella gestione del servizio. Sostanzialmente l'accusa che il comportamento di Poste nella gestione delle raccomandate provoca danni non solo ai consumatori ma anche al sistema giudiziario del paese. Tra le motivazioni infatti anche la presenza tra le raccomandate delle notifiche degli atti giudiziari che arriverebbero in ritardo, cioè l'autorità ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo peraltro frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. E ne parleremo infine, se ce la facciamo, l'accordo tra Unione Europea e Cina è un accordo molto importante sulla reciprocità degli investimenti e quindi ottenere la cosiddetta parità di trattamento con Pechino, che non si è mai ottenuta anche per una condiscendenza europea in parte tedesca, secondo me, di non rompere troppo le scatole alla Cina in questi anni, visto l'importante rapporto commerciale. Fatto sta che il trattato è ancora, non dico in alto mare, ma di là da venire sicuramente, e l'obiettivo appunto è arrivare a una parità di trattamento su tutto un insieme di trasferimenti e garantire eque condizioni in tema di aiuti di Stato e di sussidi pubblici, impedire i trasferimenti forzosi di tecnologia. Le notizie in breve invece di oggi riguardano, partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. La legge contestata britannica che rimette in discussione gli accordi presi con Bruxelles è passata al primo vaglio dei comuni. Bruxelles dice: aspettiamo di vedere gli sviluppi a Londra. Il nostro punto di vista è molto chiaro, non si può mettere mano a un trattato già firmato, un accordo già firmato. Solo due ribellioni, ma con circa 20 astensioni. Quindi la rivolta, diciamo, di una parte dei conservatori contro Boris Johnson è stata una rivolta, diciamo, contenuta, non certo in questo momento preoccupante. La maggioranza è stata di 77 deputati, però si segnala ancora molto mal di pancia dentro i conservatori per questo cambio di rotta del governo di Boris Johnson. Comunque, veniamo all'Europa. Per quello che riguarda l'inflazione, la Banca Centrale Europea sostiene che l'inflazione è bassa a livelli ed è attesa a restare bassa a livelli disagevolmente inferiori al nostro obiettivo. Sappiamo che l'obiettivo della BCE è di avere un'inflazione intorno al 2% nell'area euro. In Italia è confermata la stima meno 0,5% ad agosto, quindi siamo in deflazione. E tra l'altro la diminuzione meno 0,5 su agosto ovviamente del 2019 era luglio meno 0,4 su luglio del 2019. Alcuni mi scrivono del nuovo record di debito pubblico. Guardate, la cosa importante è il rapporto del debito col PIL. È chiaro che a livello nominale è sempre in aumento, siamo a 2.560 miliardi. Il problema è, questa è la stima della Banca d'Italia, che dovremmo vedere quello che è il PIL, e purtroppo sappiamo che non è solo un problema di numeratore, è anche un problema di denominatore, cioè se si abbassa il PIL, il rapporto debito-PIL schizza, magari anche con un debito non così in peggioramento, fermo restando che tutta la manovra che abbiamo fatto, ma praticamente i 100 miliardi diciamo dall'inizio dell'epidemia, sono sostanzialmente a debito, anche perché la Banca d'Italia fa notare che le entrate tributarie nei primi 7 mesi sono calate del 9,4% a 213 miliardi, quindi sono state un calo di 22 miliardi nei primi 7 mesi del 2020 rispetto ai primi 7 mesi del 2019. È chiaro che vi è stata la sospensione anche di molte cartelle di pagamenti di carattere fiscale. Buono il dato invece sui prestiti bancari alle famiglie e alle imprese, più 3,9%, sale anche rispetto al mese di luglio, e quindi il totale dei prestiti ai residenti in Italia è salito a 1.704 miliardi di euro. Crescono i depositi bancari, a dimostrazione di quello che continuiamo a ricordare, che l'incertezza fa sì che anche chi non ha avuto un danno economico dal Covid o l'ha avuto limitato continui o a aumentare le quote di risparmio gestito. Citavamo ieri i dati di Assoreti l'altro ieri, ma aumentano anche i depositi bancari, più 7%, quindi un aumento in valore assoluto su base annua di 110 miliardi di euro, e quindi l'ammontare dei depositi raggiunge i 1.673 miliardi di euro. Dei depositi bancari italiani sono 110 miliardi in più depositati in banca rispetto al 2019. E qui voglio dire una cosa, è ovvio che a questo punto le nuove iniziative a sostegno del reddito dovranno essere molto mirate, perché è chiaro che i 600 euro dati quando sono arrivati a marzo e aprile sono stati dati in una situazione emergenziale. A maggior ragione quando tu vedi che c'è una parte del paese che aumenta di 110 miliardi di depositi bancari, devi stare molto attento a non dare, lo dico a costo di risultare impopolare, i soldi a chi in realtà poi li prende e li mette in banca. Comprensibile l'atteggiamento di chi li prende e li mette in banca vista l'incertezza sul futuro, ma attenzione, non sono quelle le situazioni diciamo di emergenza economica. Se tu hai la possibilità di aumentare il tuo deposito bancario, e complessivamente ad agosto sono saliti i depositi di 110 miliardi di euro, cioè mal contati 4 punti e mezzo, 5 punti di PIL. A questo proposito l'INPS oggi ha dato anche i dati sull'andamento del reddito e pensioni di cittadinanza. C'è stato un aumento nel mese di agosto, 1.300.000 percettori, cioè 1.300.000 famiglie coinvolte, coinvolgendo nel complesso 3 milioni di persone. C'è un incremento anche rispetto a gennaio, più 23%, erano 1.059.000 percettori di famiglie coinvolte, adesso sono 1.300.000. Ed è anche aumentato il numero delle persone coinvolte, passate da 2 milioni e mezzo a 3 milioni. Però per il solo reddito di cittadinanza l'incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%. Questo è chiaro che nella versione del reddito di cittadinanza come misura di welfare, quindi di sostegno alla povertà, questo è un effetto di quello che è successo diciamo da gennaio adesso. Abbiamo visto i dati la settimana scorsa sugli occupati, che ancora purtroppo non scontano quello che potrà capitare quando verranno sbloccati i licenziamenti, ma scontavano già in una cifra che, se non ricordo male, era di 500.000 unità scontavano già il mancato rinnovo di molti contratti a termine e in particolar modo nel settore dei servizi legati al turismo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che molti stagionali, come si chiamano in gergo del turismo, a maggio, giugno e luglio non hanno visto i contratti, cosa che invece avveniva l'anno scorso. E questo sicuramente ha portato poi queste persone probabilmente a richiedere il reddito di cittadinanza, parte di queste, perché il contratto stagionale, che tipicamente andava da aprile ad agosto, da maggio a settembre, non si è verificato per un crollo della domanda nel turismo. E da qui poi vedi anche all'interno della richiesta di reddito di cittadinanza questo spostamento, perché un più 25% da gennaio adesso è tanto come incremento. Di queste famiglie, su 1.300.000 famiglie, 800.000 sono residenti al sud e nelle isole, 300.000 al nord, quindi sono 2 milioni i cittadini coinvolti al sud, 630.000 quelli al nord e 197.000 famiglie, cioè 423.000 persone nel centro Italia. Un ultimo dato riguarda l'effetto Covid stimato dalla Confcommercio nel triangolo Milano, Lodi e Monza Brianza. Lo dico perché è chiaro che è relativo a quell'area, però è una stima che spero intanto sia per eccesso, diciamo, di negatività, e che non venga e che non risulti poi applicabile al resto del paese. Perché lo dico? Perché Confcommercio sottolinea come l'effetto Covid metterebbe a rischio un'impresa su tre tra Milano, Lodi e Monza Brianza, con punte del 34%, con casi più pesanti soprattutto per la città di Milano, che sconta il dato sul lavoro agile o sullo smart working. Secondo Confcommercio il 56% delle imprese nei settori dove si può fare lavoro agile, lavoro a distanza, ha più del 75% dei dipendenti al lavoro fuori sede, quindi a casa o in altri luoghi. C'è qualche segnale di ripresa, sottolinea il rapporto, ma il settore del terziario è a rischio, un'impresa su tre è a rischio chiusura. Adesso, prima di arrivare poi all'appuntamento con la borsa e quello che è successo a Fiat Chrysler, vorrei far ascoltare, tra virgolette, il botta e risposta che si è generato ai nostri microfoni. Che cosa è successo? C'è stata un'intervista domenica, prima su Sole 24 Ore, al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha quantificato il valore del taglio dei cosiddetti SAD, cioè i sussidi ambientalmente dannosi, un valore da 2 miliardi e 800 milioni, di cui 2 miliardi e 700 milioni riferibili al differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio. Si tratta di 2 miliardi e 800 milioni di maggiori entrate per lo Stato, derivanti da nuove tasse o dal fatto che verranno meno agevolazioni fiscali. La proposta è anche stata votata in una consultazione online sul sito del Ministero dell'Ambiente. E Costa ieri ha ribadito l'intenzione, escludendo che si tratti di nuove tasse, ma di un passaggio al green. Sentiamo Costa ieri 24 mattino con il nostro Simone Spezia. Sussidi ambientalmente dannosi è già previsto che siano cancellati dall'accordo di Parigi firmato a livello internazionale da 198 paesi al mondo. Quindi è un impegno assunto dall'Italia in cosiddetti tempi non sospetti. Ma la trasformazione dei SAD non serve ad aumentare le tasse, serve a compensare un passaggio dal no green al green. Ce ne sono tanti di questi sussidi, pensi che montano a oltre 19,7 miliardi di euro su base annua, che noi vogliamo far diventare 19,7 miliardi di euro green alle stesse categorie, quindi nessuno ci rimette niente. La legge di bilancio attuale, quella approvata per l'anno 2020, prevede che il lavoro che stiamo facendo sia fatto insieme al Ministero dell'Economia e insieme al Ministero anche dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, cioè quattro ministeri che concordano sulla linea che le ho dato io, cioè il passaggio dai dannosi ai favorevoli, che serve per fare cassa. serve invece per aiutare per singola categoria coloro che passano. Noi nelle cosiddette audizioni di cui si è parlato in questi giorni abbiamo sentito tutte le associazioni ambientaliste, come prevede la norma, ma anche l'Unione Petrolifera, per esempio, che le dico anche con grande piacere, non è che ha alzato le barricate, ha detto ci sta bene, vi faccio delle controproposte, su quello stiamo lavorando assieme. La risposta di oggi, sempre a 24 mattino, del presidente dell'Unione Petrolifera Claudio Spinacci, che ha detto il governo ha già deciso, mi sembra chiaro dalle parole del ministro, dicendo che esistono 19 miliardi, in realtà 19 miliardi di sussidi non esistono. Sentiamo appunto la replica di Spinacci. Secondo noi il governo ha già deciso ed è per questo che come in subordine abbiamo detto qualsiasi manovra fatela a saldo zero per i consumatori. Questa è stata più che altro una richiesta di una decisione che mi sembra, dalle parole del Ministro, in un modo o nell'altro sia già stata presa, dicendo peraltro che esistono i 19 miliardi. I 19 miliardi non esistono perché oggi non vengono pagati, perché chi utilizza i sussidi non li paga quei 19 miliardi. Quindi è piuttosto evidente che quando verranno pagati con eventuali cancellazione dei sussidi ci sarà un aumento di accisa sui carburanti. Vedremo, è parte anche della trattativa. Comunque abbiamo dato giustamente anche la replica dell'Unione Petrolifera Italiana. Un'ultima notizia prima di andare sul meteo pubblicità e parlare di Fiat e del recovery plan. Una cosa la voglio dire a alcuni ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666, una trasmissione seria come la sua non può speculare sulle bozze. No, non speculiamo sulle bozze. Ho chiarito anche che il ministro Amendola ha smentito, ha detto che si tratta di bozze vecchie e ha avviato una denuncia alla Procura della Repubblica. Detto questo però, visto che alcune cose invece dovrebbero essere confermate, la parte infrastrutturale, cerchiamo di capire come arriverà la scrematura, perché il dato certo è che i vari ministeri e dipartimenti hanno presentato 577 progetti. Questo non vuol dire che il recovery plan sarà fatto di questo, è ovvio. Andranno scremati, andranno fatte delle scelte, delle volte anche dolorose, di priorità. In questo caso spero che la politica e il governo non cerchi un consenso a tutti i costi, perché quando devi scegliere è chiaro che scontenti qualcuno. E quindi che un atteggiamento, passatemi il termine, democristiano non abbia la meglio, devi essere purtroppo anche brutale quando hai delle priorità nel paese, altrimenti avremo solo delle grandi iniziative a pioggia. Quindi che non emerga un atteggiamento né democristiano né di sussistenza, diamo un po' a tutti così, perché così non fai nessuna scelta e non fai ripartire niente. I soldi non sono infiniti, basti vedere che se prendi i progetti in teoria da finanziare si è già a tre volte il valore del recovery fund negli anni in cui viene esplicato. Però ecco, l'importante è non cercare di far contenti tutti, di piacere a tutti. Non è questo purtroppo il periodo. Meteo. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Arriveremo fra un attimo al recovery plan, alle proposte. La borsa ha chiuso più 0,80%, ma il caso di borsa è uno solo oggi, si chiama Gruppo Fiat. Fiat chiude sui massimi più 9%, la controllante Exor più 5,91%. Perché? Che cosa è successo? Sostanzialmente Fiat Chrysler e Peugeot Citroën hanno rivisto i termini finanziari dell'accordo che darà vita al quarto gruppo mondiale dell'auto. Si era già aperto un confronto su come modificare il maxi dividendo straordinario da 5 miliardi e mezzo di euro che Fiat doveva staccare i propri azionisti. e su questo si sono cercate soluzioni alternative. Chiedo a Paolo Bricco quali. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Quali sono le soluzioni alternative e perché la borsa si è entusiasmata sia sul titolo Fiat che sulla controllante Exor? Sì, sostanzialmente il grande plauso degli investitori riguarda soprattutto FCA, in generale anche Peugeot è andata bene in questi giorni, ricordiamolo, i concambi, questa rivisitazione che tu hai descritto poco fa è stata rivelata da una collega del Sole 24 Ore, Marigia Mangano, che certo. Ha fatto uno scoop importante, molto importante. La sostanza è che rimangono tanti soldi all'interno della futura Stellantis, nome che assumerà il nuovo gruppo. Certo. 2,6 miliardi di euro di liquidità in più. Ecco, il plauso, il favore degli investitori e degli azionisti nasce proprio da questo elemento. Ecco, va sottolineato un aspetto. Sia la componente francese che la componente italiana, olandese, americana, che dir si voglia, come è strutturata oggi FCA, hanno fretta, hanno molta fretta, vogliono riuscire a chiudere l'intera operazione nel primo semestre, addirittura primo trimestre dell'anno prossimo. La prospettiva è quella di fare le assemblee alla fine di quest'anno, potrebbe essere così, ma perché, e qui vado appunto a unire due elementi, il plauso della borsa e i 2,6 miliardi di euro di liquidità che rimangono dentro al nuovo gruppo, perché stanno bruciando tantissima cassa, tantissima liquidità. Nel primo semestre di quest'anno, causa Covid, coronavirus, FCA ha bruciato 10 miliardi di euro di debito industriale. Aveva una posizione finanziaria industriale positiva per 5 miliardi alla fine dell'anno scorso, adesso è negativa per 5 miliardi, quindi sono andati in fumo 10 miliardi di euro. PSA, la componente francese, ne ha bruciati 5 miliardi. Ora, è evidente che questa operazione deve essere portata a termine il più rapidamente possibile. Per farlo serve finanza d'impresa strutturata e solida all'interno, dato che le cose non vanno bene. Questi 2,6 miliardi di liquidità in più che rimangono dentro alla nuova Stellantis, in sostanza sia FCA che PSA rinunciano a pezzi di cash e accettano della carta di una società di componentistica che originariamente era fuori dal perimetro, doveva andare solo ai francesi. Questa cosa fa sì che il nuovo gruppo industriale sia agli occhi di tutti, azionisti, investitori, è più solido e più forte. Più vantaggio per il gruppo industriale nascituro, meno vantaggio oggi per gli azionisti che incassano meno extra dividendo cash. Però ecco, allora chiariamo questo, perché il dividendo speciale che sarà distribuito da Fiat Chrysler ai suoi azionisti scende da 5 miliardi e mezzo a 2 miliardi e 9, e appunto qui usciva i 2 miliardi e 6 che restano in cassa, no? Della nuova che tu facevi riferimento. E la quota del 46% detenuta da PSA in Faurecia, un gruppo di componentistica auto, sarà distribuita a tutti gli azionisti di Stellantis dopo la chiusura dell'operazione. E gli azionisti dei Fiat Chrysler e PSA riceveranno una uguale partecipazione pari al 23%. Quindi, a rigor di logica, Paolo, per far capire agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, quando un gruppo dice distribuirò meno dividendi speciali, cioè distribuirò meno utili agli azionisti, il titolo dovrebbe perdere, perché teoricamente tu dici: se so che c'è un dividendo, compro il titolo e lo porto a livello, diciamo, della distribuzione di dividendo. Se il dividendo viene meno, dovresti avere un crollo del titolo. Perché invece Fiat ha fatto un balzo così forte, più 9%, ed Exor più 5,90%? Perché quello che tu dici vale sulle regole della normalità dei mercati. In questo caso i mercati annusano, capiscono che il gruppo ha bisogno di quella liquidità, tanta, perché sennò si rischia di avere grossi problemi di finanza d'impresa sulle due componenti e sulla futura componente, e allo stesso tempo a quel punto il mercato accetta la possibilità che gli azionisti ricevano meno soldi subito, con la prospettiva che si possa fare un'operazione che ormai non il mercato stesso definisce assolutamente necessaria e essenziale per queste due società importanti, antiche, con molti punti di forza, ma anche con molti punti di debolezza. Quindi il fatto che mettono i soldi, devono fare. Quindi il fatto che tengono più soldi in cassa invece che distribuirli come utili agli azionisti viene visto in maniera positiva, se ho ben capito, perché sì, significa che c'è la volontà di andare avanti con l'operazione e c'è la volontà di andare avanti con l'operazione mettendo anche più cassa, visto che cassa si è bruciata con il Covid, e quindi tenendo più soldi in cassa fare l'operazione per non avere problemi di finanziarizzazione dell'operazione. E tra le due, diciamo, il mercato premia la volontà riaffermata di andare a fondersi con PSA. Era importante, hai fatto bene anche a ricordare la collega Marigia Mangano, che ha avuto lo scoop su questo sul Sole 24 ore. Chiaramente avevamo chiamato anche lei, aveva un impegno professionale, lo dico, sennò sembriamo pazzi, non riusciva a essere in collegamento. Va bene, diciamo, Fiat Chrysler e la controllante Exor. Devo dire che sono tra le migliori in assoluto anche oggi in borsa, oltre a Tiscali più 12,5 e Tesla più 11,20%, visto che stavo dando la borsa. Bene anche Moncler più 4,30, Nexi più 3%, fronte opposto Unicredit meno 1,70, Banca Generali meno 1,30 come Biperbanca. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Adesso invece andiamo sul tema che non sarà esaurito oggi, lo dico ad alcuni ascoltatori, non stiamo né sparando sul governo né elogiando il governo, stiamo mettendo le mani avanti, un po' come abbiamo fatto con la scuola, sperando che alcuni atteggiamenti, alcune bozze uscite, smentite dal ministro Amendola, non abbiano a ripetersi, e quindi che si arrivi a una selezione vera basata sulle priorità, a costo anche di dover scontentare qualcuno. Allora, la bozza smentita dal ministro Amendola, che ha detto: mi fa arrabbiare che qualche furbone faccia uscire carte superate da almeno 30 giorni, ci vuole serietà, e d'accordo con il Presidente del Consiglio ho deciso di denunciare alla Procura della Repubblica l'ultima fuga di notizie. In realtà dentro questo giro di bozze ci sono delle cose che vengono confermate, per esempio l'alta velocità Napoli-Bari, il piano per il 5G in tutta la penisola, il completamento della Torino-Lione. Ci sono poi però tantissime voci che hanno poca spesa, 1 milione, 2 milioni, ma l'abbiamo già visto nel corso delle finanziarie, che però messe assieme la spesa complessivamente aumenta, tant'è che se uno dovesse finanziare tutti i 577 progetti arrivati avremmo bisogno di 677 miliardi e non dei 208 che, ammesso e non concesso, l'Europa ci dia tutti, è il massimo della quota che può avere in Italia, che può avere l'Italia. 81 miliardi in trasferimenti, quindi a fondo perduto, e 127 miliardi come prestiti che verranno rimborsati a partire dal 2027, la scadenza ancora non è chiara. I progetti più corposi riguardano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 miliardi in 4 anni per ridurre temporaneamente il costo del lavoro e quindi far creare più posti di lavoro costando meno il lavoratore all'impresa, il piano transizione 4.0, 60 miliardi in 5 anni, quindi incentivi per la trasformazione nel digitale delle aziende, un piano che ha molto funzionato a suo tempo, gli investimenti nella salute e quindi miglioramento del patrimonio edilizio, riqualificazione e costruzione di ospedali attraverso anche l'adeguamento sismico e antincendio, con protocolli di sostenibilità ambientale, 34 miliardi in 6 anni. L'estensione per il periodo 2022-2024 del super ecobonus e del super sisma bonus varrebbe 30 miliardi in 3 anni. Poi ho già detto, ma non voglio fare la classifica del venerdì oggi, ho già detto che mi lascia. Poi c'è il piano Italia cashless, quindi verso una società che usa praticamente, che non usa i contanti, 10 miliardi in 3 anni. Poi ci sono dei progetti che non capisco, i 450 milioni in 5 anni chiesti dal Ministero della Difesa per realizzare la costellazione di piccoli satelliti impiegabili ai fini del monitoraggio dello spazio extraatmosferico. alieni inclusi, l'ammodernamento degli impianti di molitura delle olive, 1,2 miliardi in 3 anni e mezzo. Però Dino Peso del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ecco. Tu hai tanta storia giornalistica alle spalle, non per dire che sei vecchio, ma che sai benissimo che insomma, anche le finanziarie di una volta partivano così, no? Tante richieste e molte non esaudibili. Ovvio che qui il piatto è più ampio, l'obiettivo è anche più ambizioso e quindi le richieste sono tante. Hai capito però tu, al di là della polemica di Amendola, quali saranno i criteri della griglia e quindi diciamo della ghigliottina, cioè quali passeranno, quali no, come si farà a scremare, quali saranno diciamo le categorie che permetteranno poi di dire un progetto non rientra in Next Generation EU, non rientra nelle priorità del paese per renderlo più competitivo e un altro sì? Beh, la premessa è che naturalmente queste indiscrezioni che sono uscite, che poi peraltro escono non a caso in prossimità dell'appuntamento elettorale del prossimo fine settimana, parlano di un ammontare di spesa che effettivamente è il triplo di quello che ci è stato assegnato, quindi insomma sono assolutamente poco credibili, anche se, come ricordavi, molti di quei progetti poi troveranno posto nel piano definitivo. I criteri sono obbligati in qualche modo, anche perché ricordiamolo, si polemizza, si discute molto nel nostro paese sull'eventuale ricorso al MES. In realtà il meccanismo che prevede maggiori condizionalità, buone questa volta, positive, non negative sotto forma di troica o quant'altro, vengono proprio dal recovery fund. Sì, fai bene a ricordare che il recovery ha più condizionalità del MES, poi ognuno pensa come vuole, però basta capirci sui fatti. Cosa vuol dire condizionalità? Vuol dire che l'Europa, ancor più con il recovery che con il MES Covid, andrà a valutare, e poi c'è i singoli paesi, se il progetto è aderente alle indicazioni date, quindi di Next Generation, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e quant'altro, oppure no, e serve via libera. Quindi attenzione che poi non glielo puoi portare scritto come vuoi tu, o che includa diciamo le voci che interessano a te, magari per pressioni anche di carattere elettorale. Scusami, ti ho interrotto, Dino. No, è giusto, e per chiarire che naturalmente sulla base di questa valanga di progetti che sono assuiti alla cabina di regia, chiamiamola così, insediata a Passo Chigi sotto la guida di Enzo Amendola, bisognerà attivare una selezione molto accurata, e per questo c'è tempo, se vogliamo, fino a gennaio, perché in occasione della presentazione della legge di bilancio a metà ottobre sostanzialmente si presenteranno le griglie di massima, poi i progetti dovranno essere definiti entro la fine dell'anno, e si tratta di progetti che devono in via obbligatoria collocarsi all'interno delle raccomandazioni che la Commissione Europea ha rivolto all'Italia negli ultimi anni, in particolare quelle del 2019, e sono molto note, peraltro il governo le ha recepite nelle linee guida, sono quelle che riguardano la transizione verso un'economia sostenibile verde, verso la digitalizzazione dell'economia e delle imprese, verso un'economia che viene definita socialmente sostenibile, quindi infrastrutture materiali e immateriali che siano effettivamente realizzabili. E la sanità, naturalmente. La sanità, ecco, sulla sanità però un dubbio, scusami, perché quando sempre sta bozza che non vale nulla, tu dici giustamente 34 miliardi di spese in 6 anni per riqualificare il patrimonio edilizio e costruendo, riqualificando gli ospedali, adeguamento sismico e antincendio, interventi coerenti con i protocolli di sostenibilità ambientale. Questo rientra dentro il recovery o dentro il MES? No, questo rientra tra le voci anche del recovery. Perché c'è la sostenibilità ambientale, giusto? Esatto, fermo restando però che il recovery guarda progetti in medio periodo che siano sostenibili e che devono essere finanziati attraverso il meccanismo del recovery fund. Sono tranche annuali, la prima quota dovrebbe arrivare all'Italia entro maggio, fine maggio, si tratta di 20 miliardi nel totale, e poi verranno concesse le quote semestrali fino a raggiungere il plafond dei 209 miliardi complessivi. Quella del MES è un'altra storia, perché quella è una fonte di finanziamento dedicata esclusivamente a quelli che vengono definiti costi diretti e indiretti della sanità, e che serve dunque esclusivamente a finanziare i sistemi sanitari che sono sotto stress. Cioè l'emergenza sanitaria, non la parte di infrastruttura sanitaria. Esatto. Ok, quindi l'acquisto di materiali sanitari, negli indiretti poi potevi mettere dentro anche altre cose, per esempio i costi della scuola, se ricordo bene, potevano entrare nel MES come costi indiretti per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid, parlo dei costi dei banchi piuttosto che di altri dispositivi di sicurezza. Sì, esatto, sono due strumenti che possono viaggiare insieme e poi si vedrà se il governo riesce a trovare una via di sintesi, a superare le obiezioni che continuano a essere sollevate da parte del Movimento 5 Stelle sull'utilizzo del MES pandemico, chiamiamolo così. Mm-hmm. Però possono camminare insieme, in più comporterebbero un notevole risparmio sul versante della spesa per interessi, anche questo non dimentichiamolo, e se poi sommiamo tutti questi addendi, ci mettiamo il fondo SURE, ci mettiamo il MES, chiamiamolo pandemico, e ci mettiamo il recovery fund, beh insomma, risparmiamo un bel po' di soldini da qua ai prossimi 10 anni. Sì, sul MES sono 500 milioni di interessi all'anno. L'obiezione di chi non è d'accordo col MES è, oltre che avere questo timore per le condizionalità, ma guardate, è dire, ma insomma in questo momento riusciamo a finanziarci sul mercato a tassi così bassi che paradossalmente, se dovessimo ricorrere al MES, sembrerebbe quasi un segnale di debolezza del paese che non riesce a rifinanziarsi a sufficienza sui mercati. Non so se mi sono fatto capire, ma insomma sì, è un'obiezione sì, più legata delle volte a questo che alle condizionalità in senso stretto. Sì, in realtà poi è vero il contrario, perché noi secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ma anche della Banca d'Italia, e se noi finanziassimo attualmente agli attuali tassi di mercato, nella media siamo oltre l'1% per quanto riguarda il tasso di finanziamento medio di un BTP a 10 anni, consideriamo che se noi chiedessimo per 7 anni il MES alle condizioni che sono state fissate dall'Eurogruppo e dal Consiglio europeo, addirittura saremmo a un tasso negativo, e quindi questo è abbastanza incontrovertibile. No, no, che ci sia un risparmio sul mercato, anche io ti citavo solo le obiezioni degli altri. Allora, adesso vedremo, no, ho capito che insomma la cabina di regia resta con Amendola e che tutti insieme di questa operazione vedremo la griglia solo a metà ottobre. Hai fatto bene però a ricordare, attenzione, che la griglia europea è abbastanza chiara su quello che puoi finanziare per Next Generation. Ecco perché dico che, per chiudere con una battuta, le costellazioni di piccoli satelliti, non so tu, del Ministero della Difesa, le vedo dure, perché non rientrano né nella sostenibilità ambientale né in una maggiore, capito, capacità competitiva e evoluzione verso il green. Grazie anche a Dino Pesole. Andiamo adesso sul GR24, poi invece i due temi, sicuramente uno dei due, mi riferisco alle Poste Italiane, ma anche lo stop nel tentativo di un accordo tra Unione Europea e Cina, che può sembrare in questo momento così teoria, in realtà è fondamentale anche per una ripartenza degli scambi commerciali tra Unione Europea e Cina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da gsrisarcimentodanni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche al tema molto alto, ripeto, può sembrare addirittura troppo alto, ma in realtà va a definire i rapporti futuri anche commerciali tra Europa e Cina, sperando che vi sia meno sudditanza nei confronti della Cina, che è stato un tratto della globalizzazione che è ormai terminata, per molti è terminata anche dopo la crisi del 2008, 2009 e 2011 sui debiti sovrani, ma sicuramente è cambiata l'aria. Però prima di questo vorrei occuparmi di una notizia che può sembrare piccola per la montare, perché la multa che l'antitrust ha erogato al gruppo Poste Italiane di 5 milioni di euro, ma il massimo consentito dalla legge, e l'accusa è di aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del codice del consumo, consistente nella promozione risultata ingannevole di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate, del servizio di ritiro digitale delle raccomandate. Dice che invece i ritardi, appunto, non palesati dalla pubblicità ingannevole, oltre che danneggiare i consumatori, danneggiano anche il sistema giustizia del paese, visto che tra le raccomandate c'è la notifica degli atti giudiziari. Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, va detto che la replica delle Poste è stata, siamo molto dura, orgogliosi del lavoro fatto in emergenza Covid. Abbiamo una giacenza, sulla giacenza delle raccomandate abbiamo lo 0,0008% dei reclami, e mentre l'antitrust, come accennavo, dice attenzione, la mancata consegna delle raccomandate provoca gravi danni al sistema dovuti anche al mandare in prescrizione numerosi reati penali. Che è successo, Laura? Ma guarda, è successo che dal novembre dello scorso anno l'antitrust aveva aperto questo procedimento proprio a seguito delle numerose segnalazioni che sono arrivate su questo problema, cioè sul fatto che, e ahimè temo che sarà capitato comunque sicuramente qualche volta a ognuno di noi, di trovarsi l'avviso di decenza nella cassetta postale e dover recarsi, no, all'ufficio postale per ritirare una raccomandata, e quando poi magari uno era in casa e il postino non aveva suonato. Ecco, quello che l'antitrust ha fatto è stato accertare, anche acquisendo dei report interni di Poste Italiane, che questo fenomeno non era un fenomeno, diciamo, sporadico, ma molto diffuso. Si tratta di migliaia di casi, un'incidenza su i volumi da consegnare che in alcune zone del paese raggiungeva il 40% dei volumi di raccomandate, e cose che emergevano dagli stessi documenti e report interni di Poste. Per cui, insomma, l'autorità ha deciso di comminare questa pena molto alta, anzi addirittura ha detto che questi fatti sono così gravi, perché comunque proprio è un danno che viene fatto al consumatore, che meriterebbero pene più alte addirittura rispetto a quello massimo consentito dalla legge. E di fatto, proprio perché, tra le altre cose, oltre a emergere questa forza incidenza, emergeva anche che quando la società era consapevole di quanto stava accadendo, non metteva in atto procedure, diciamo, incisive per risolvere il problema, venivano fatti semplici richiami. E tra l'altro emerge che c'era la possibilità anche di tracciare questi casi con i palmari che sono in dotazione ai postini. Quindi credo che un po' la forza di questa decisione sia legata anche al fatto che si notava, o perlomeno l'antitrust si è ritenuto, che l'azienda non avesse messo in pratica contromisure sufficienti per arginare questo fenomeno. Poi una cosa che devo dire mi ha colpito è la lettera che Poste mandava ad alcuni clienti di cui viene raccontata una parte, in cui praticamente diceva: a fronte del reclamo Poste diceva, ma se voi non avete prove concrete per dimostrare che il postino non vi ha suonato, non possiamo agire. Sì, tra l'altro, come tu ricordavi, questa cosa è nata da numerosi reclami. Le Poste dicono sono solo lo 0,00008%. Però perché il cittadino aveva la certezza di essere in casa, per esempio ci sono stati reclami di portatori di handicap, ma anche quando durante l'emergenza sanitaria, nel lockdown, oggettivamente la stragrande maggioranza delle persone era obbligata a stare in casa. È successo personalmente anche a me, di trovare, perché poi uno non è che ma forse non ho sentito il campanello, forse era momento, certo che tutte le volte venisse semplicemente recapitato la giacenza senza mai una consegna fisica, è un po', era un po' strano, devo dire la verità, nemmeno io ci ho fatto caso, ma non pensavo, cioè, pensavo sì, no, fosse colpa mia, onestamente, tutto qua. No, ma che non l'ho sentita? No, in realtà il rapporto dice proprio che durante questo il coronavirus, durante il lockdown, il fenomeno è proseguito e anche aumentato. Posso anche immaginare che il postino in quel caso avesse anche qualche timore entrare in certo. casa. Quindi, però chiaramente se tu devi garantire un servizio, il servizio ci deve essere. Quindi, oppure chiarisci in maniera molto palese che per motivi sanitari durante il lockdown il servizio di consegna, diciamo, fisica dovrà essere limitato o addirittura sospeso, ma lo dici, nel senso sì, certo, vabbè, potevamo chiamare il blocco, giustamente mi fa notare un ascoltatore, il postino suona sempre una volta, sì, aggiungo io, quando suona una volta. Molti mi stanno scrivendo, è successo anche a me ed erano multe, sì, poi succede che delle volte tra la cosa in giacenza, riuscire ad andare, insomma, alle poste, sapete, le poste, parlo delle poste fisiche, giustamente la distanza che devi tenere col Covid crea anche, insomma, qualche problema logistico, diciamo, meglio sarebbe stato ricevere la multa, l'atto giudiziario in mano, ecco, questo dovrebbe essere un servizio di recapito delle raccomandate. Vedremo la risposta delle poste italiane, ma il giudizio, come tu ricordavi, dell'antitrust è netto. Il 40% dov'era, non ho capito il messaggio di un ascoltatore. No, vedo molti che mi dicono è successo adesso, non vorrei creare un fenomeno, però molti mi dicono che è vero che il postino non segna, non suona, scusatemi, e mette direttamente nella cassetta postale. E ho richiamato l'ufficio postale a fronte di un reclamo, hanno risposto con le risate, adesso vabbè, non posso, la consegna digitale inesistente, vabbè, diciamo che almeno qualcuno mi dice perché a chi ha la PEC non dovrebbe essere vietato mandare raccomandate, sì, in effetti c'è la PEC, mi chiedo anche perché non possa arrivare un atto giudiziario, che sia una multa, che sia un qualcosa anche di più grave attraverso la PEC. Però almeno l'antitrust su questo si è mosso. Grazie a Laura Serafini, sulle 24 ore, scusatemi. Andiamo sul traffico e poi l'accordo UE-Cina ancora lontano. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Dunque, si è tenuto ieri in teleconferenza un incontro al vertice tra Bruxelles, tra l'Unione Europea e Pechino, a cui hanno partecipato, dico al vertice perché la parte europea era rappresentata dalla stessa Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, la Cancelliera Angela Merkel, questo perché la Germania ha la Presidenza di turno nell'Unione del Consiglio dell'Unione Europea. Il fronte cinese è rappresentato niente proprio di meno che da il presidente cinese Xi Jinping. È da 7 anni che Bruxelles e Pechino cercano di negoziare un trattato sulla reciprocità degli investimenti. Cosa vuol dire? Bruxelles vuole arrivare al libero accesso alle aziende europee in Cina, vuole che vengano garantite le eque condizioni in tema di aiuti di Stato e di sussidi pubblici, e poi che vengono impediti i trasferimenti forzosi di tecnologia, cioè spesso l'azienda cinese, se tu vuoi operare in Cina, devi trasferire parte delle competenze che tu hai in Cina stessa. Cioè il tema di fondo, a mio avviso, è proprio quello di avere nei confronti della Cina un rapporto di minor sudditanza, prima perché la Cina era la grande manifattura a livello mondiale, la Cina era un'opportunità, poi ci siamo accorti che la Cina è sì un'opportunità per le nostre merci, ma c'erano casi di grossa scorrettezza di carattere commerciale e comunque disparità di carattere commerciale, cioè quanto aperti eravamo noi e quanto invece chiusi erano i cinesi. Questo nel giorno in cui però la WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, ha detto che i dazi imposti da Donald Trump sui prodotti made in China, imposti nel 2018, vanno a violare le regole internazionali. Trump mise più di 500 miliardi di dollari di dazi sui prodotti. Però restiamo sul fronte europeo. Non c'è stato, se ho ben capito, un passo in avanti, o comunque il passo in avanti è stato molto, molto debole. Alessia Mighini, professore associato di politica economica presso l'Università Piemonte Orientale ed è, diciamo, dentro il programma dell'ISPI, nel programma Asia. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, professoressa, ci aiuti a capire, perché è 7 anni che Bruxelles e Pechino trattano. È ovvio che questo è fondamentale anche quando ripartirà il commercio internazionale in maniera più insistita, ma il punto, diciamo, su cui non si riesce a trovare una caduta, o i punti su cui non si riesce a trovare una caduta, un compromesso, quali sono? Ah, direi che il punto cruciale è quello della reciprocità, che è sacrosanto, e questo le imprese lo sanno da tempo, e che però la controparte cinese prende sempre in modo un po' così risentito, nel senso che accampano costantemente, nonostante il livello di sviluppo e la dimensione economica che la Cina ha raggiunto ormai da qualche anno, accampano lo status di, diciamo, di economia in via di sviluppo, per così dire. E quindi ritengono ingiusto che gli si chieda una reciprocità che ad altri paesi di sviluppo non si chiederebbe. Sostanzialmente è una questione di lana caprina. Non vogliono concedere la reciprocità e quindi si continua, mi permetta il termine, di cincischiare intorno a questo tema, diciamo, un po' facinoroso, è anche specioso, nel senso, come lo descriverei. Sì. Senta, professoressa, però a questo punto che armi ha l'Europa? Perché noi sappiamo che invece la Cina, guarda caso, non ha mai avuto nessun problema quando era l'Europa ad aprirsi alla Cina. Quindi noi cosa potremmo fare come Unione Europea se continua a esserci questa resistenza cinese nell'accettare una vera reciprocità, a partire appunto da non avere le aziende europee che sono in Cina svantaggiate per aiuti statali che la Cina dà alle sue imprese? Lì non è come in Europa, dove gli aiuti statali vengono guardati con molta attenzione, oppure all'obbligo di trasferimento tecnologico. Cioè, noi a questo punto cosa potremmo, non dico minacciare, ma anche banalmente fare? La risposta non è agevole, perché l'Europa in spirito e in valori ha sempre perseguito un approccio opposto, direi, forse troppo, nel momento in cui la controparte cinese diventa così, da un lato, arroccata su alcuni temi in modo dichiarato, e su altri, diciamo, si comporta a muro di gomma. Quindi dice sempre sì, faremo, e le delegazioni di Bruxelles vanno a Pechino e poi tornano indietro con nulla di fatto. E questa è una specie di leitmotiv della cosa. Quindi l'approccio americano, per avere un, diciamo, un punto di riferimento da non prendere come esempio, delle sanzioni, delle ritorsioni, dei muri, delle guerre commerciali e non tecnologiche, è un approccio da non seguire, perché non è nelle nostre corde, e poi non porterebbe ad alcun risultato, perché Trump ha l'obiettivo di svincolarsi dalla Cina, l'Europa non ce l'ha, e quindi dovremmo seguire un'altra strada. E questo è un punto molto importante, secondo me, perché siamo spesso, in questi ultimi mesi molto meno, perché secondo me la dirigenza sia europea che tedesca, che è riuscita a coalizzare un gruppetto di paesi, tra cui anche noi, per fortuna, ha capito che l'approccio europeo deve essere molto più indipendente dalla prospettiva americana. L'Europa e la Cina non vanno in decoupling, come si suol dire, mentre gli Stati Uniti e la Cina andranno abbastanza evidentemente. Quindi cosa fare di fronte a questo comportamento cinese? Cercare le leve per portarli, come dire, al nostro mulino, e quindi cercare di essere, come pare sia da un paio d'anni o tre, molto più, diciamo, attenti ai loro investimenti in Europa. È quello che a loro brucia moltissimo. Oh, no, mi interessa questa... Anche se non lo dicono, perché ovviamente nel momento in cui lo dicono si scoppiano. No, lo dico perché noi non notiamo che la Germania, dopo essere stata molto condiscendente con la Cina, ma non è una critica, è un dato di fatto: la Germania era il primo paese per interscambio commerciale con la Cina, e aveva tutto l'interesse a rafforzare questa rotta verso... anche la Germania sta un po' rivedendo le sue posizioni. Notiamo che, anche perché la Cina sicuramente non è uscita con una gran immagine dall'intera gestione del Covid e non solo, e quindi c'è proprio un tema di fondo. Notiamo appunto che l'esempio americano l'Europa non lo vuole seguire, secondo me, anche perché non può, diciamo, immaginare di non avere un partner commerciale nella Cina. Però per esempio la vicenda del 5G, su cui l'Italia ha ancora un atteggiamento un pochino ambiguo nei rapporti con la Cina in generale, è stata già una leva in cui un po' di consenso si è creato. Quindi lei sta dicendo che quello che potremmo usare noi come arma è andare a controllare con molta esattezza e anche evidentemente a mettere sotto i riflettori gli eventuali investimenti cinesi in Europa? Sì, ma anche le collaborazioni tecnologiche, scientifiche sul campo, che sono enormi e sono numerose. La Germania nel suo, non piccolo ma grande, l'ha fatto prima dell'ottobre del 2016, quando il documento sullo screening degli investimenti fu finalmente, come dire, sdoganato dal cassetto in cui era già da qualche anno, dopo che nell'estate precedente i cinesi avevano sfilato al controllo tedesco Fucca. Quello è stato il momento, diciamo, di chiusura dell'atteggiamento tedesco, a ben vedere, perché è stato un tradimento in piena regola, no? Il gioiello della robotica sfidato dai cinesi. Da quel punto i tedeschi hanno capito che i cinesi giocano quando vogliono molto poco pulito. E allora si sono ravveduti nella loro dichiarata volontà e intenzione di mantenere sempre rapporti molto positivi a costo di svenarci. Adesso la cosa è un po' diversa, però è molto, cioè il livello è estremamente, come dire, rispetto a quello americano, sino americano, è molto elegante e anche, come dire, cioè, meno polemico. Concreto. Sì, esatto. Cioè. Senta, un'ultima domanda, secondo lei però quando si potrebbe arrivare a un accordo, perché 7 anni sono tanti e nel frattempo la Cina continua... No, ma... cioè, non vorrei essere troppo brutale, ma io non mi aspetterei una cosa del genere, onestamente. Cioè, è un modo per mantenere un dialogo su un tema estremamente dolente. E quindi già questo io penso sia un obiettivo. Che poi lo si firmi o no, anche a detta di molte grandi imprese, data il tono di un eventuale accordo che dovesse davvero arrivare alla firma, quindi non particolarmente drammatico come cambiamento, non cambierebbe le sorti delle cose. Quindi continuare a parlarne e mettere il dito nella piaga, che per i cinesi tale è già un risultato. È già un risultato, dice lei. Sì. Allora, no, questo lo dico anche a alcuni nostri politici che hanno un'immagine della Cina che è almeno vecchia di 10-15 anni. Non voglio citare, insomma, una grande condiscendenza nei confronti della Cina. Attenzione, perché la Cina non è il paese della grande manifattura di 15-20 anni fa, sta facendo politica estera e politica economica tutto spiano, ed è vero quanto ricordava la professoressa che spesso nelle pratiche commerciali c'è un alto tasso di scorrettezza. Quindi ha ragione Trump. Allora, il ragionamento sullo squilibrio, secondo me, l'abbiamo sempre, era corretto. Poi la risposta che dà Trump, a mio avviso, può essere di breve termine e comunque può riguardare solo gli Stati Uniti, non un continente come l'Europa. Però attenzione a immaginare anche all'interno della Via della Seta. Io finché non vedo una freccia che va invece che da Pechino verso l'Europa, anche dall'Europa verso Pechino, della Via della Seta, così sixtantibus rebus, non mi fido. Comunque, questa è la mia opinione personale, perché vedo che tutti i grafici mostrano un grande flusso dalla Cina verso l'Europa. Vorrei vedere anche il flusso contrario. Grazie alla professoressa Alessia Amighini, è veramente tutto per questa puntata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio, ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.